vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere gli uni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Parenzo, quando si scatena contro i fascisti, è perché ne piace tanto di Barisoni, giuro. Allora ragazzi, Fabio Tortosa è il poliziotto che è intervenuto ieri per una ventina di minuti circa alla Zanzara dopo il post scritto su Facebook, Facebook oscurato, lui probabilmente sarà sanzionato, forse sospeso, non lo so, c'è un'indagine in corso, ha detto una serie di cose, mille volte ancora entrerei di nuovo alla scuola Diaz, eccetera, eccetera. Precisiamo, non ha mai detto di aver torturato, non ha mai detto di essere andato al di fuori della legge e soprattutto non è stato mai né indagato né condannato. Dopodiché possiamo parlare di tutto, Ha anche chiesto scusa di avere chiamato verme Carlo Giuliani, chiesto scusa ieri alla Zanzara, tra l'altro, sentiamo. C'è scritto anche tipo su Giuliani, è una merda che spero faccia schifo anche ai vermi sottoterra. Beh, perché se gli uomini del settimo nucleo ad oggi debbano essere colpevolizzati per quello che hanno fatto ma non hanno fatto, mentre da cittadino italiano, prima che da poliziotto, devo assistere all'intitolazione di un'aula della Camera a Carlo Giuliani, forse esce fuori un po' di pancia. E quella è la cosa della quale mi scuso. Di questo mi posso scusare. Ha suscitato scalpore anche il fatto che di fronte a una nostra domanda, ma insomma, cosa hai votato? Sei fascista? Sei di destra? Ha detto, ma guardate che io ho votato Partito Democratico. Cioè il signor Fabio Tortosa, agente della Polizia di Stato che viene dipinto da più come un torturatore, ha votato PD alle ultime elezioni. Parenzo, non dire cosa c'entra, perché tu ogni volta che qualcuno dice ho votato, ascoltatore dice ho votato 5 Stelle, ho votato Lega, dice ecco, lo sapevo, figuriamoci. No, ma io entro nel merito. Beh, dipende, gli ascoltatori che dicono. Beh, che vuol bestiali. Dire? Perché è diverso, scusa. Ma no, io entro nel merito di quel che uno dice. No, ma sentiamo Tortosa sul Partito Democratico. Dimmi la verità, sei un po' fascista o no? No. No, di destra nemmeno? Perché, guardi, le ultime elezioni non ho votato neanche a destra, sicuro. Ho votato PD. Rientrerei alla Diaz perché è stata un'operazione ineccepibile. Le spiego che io entrerei mille e mille volte all'interno della scuola Diaz perché la vedo dal punto di vista operativo della tipologia di operazione che siamo stati chiamati a fare, che ribadisco essere stata ineccepibile, ma l'ineccepibilità è stata messa in discussione. Il Ministero degli Interni deciderà che cosa fare. Io trovo assurdo che si possa pensare, come dice qualcuno, a cacciare dalla polizia quest'uomo. Cioè qualcuno vorrebbe cacciare dalla polizia vari elementi della sinistra, ma non solo della sinistra, eccetera, vorrebbero cacciare dalla polizia quest'uomo dicendo che è indegno di rimanere nella polizia. Indegno, dicono, indegno. ovviamente prende no, le parti, prende le parti di Tortosa. Sentiamo Salvini. È uno di quelli che è stato condannato perché ha fatto qualcosa, sì o no? No. Perfetto, e allora lo, lo condanniamo perché ha fatto un post su Facebook dove magari è entrato in una scuola a guardare il soffitto? Senza toccare un capello a nessuno. Io sono preoccupato. Questa è la Zanzara 800 24 00 24. Intanto a Milano lui è preoccupato, lui. Lui. Intanto a Milano succede che 250 commercianti hanno messo una specie di taglia con le foto dei rapinatori. Con le foto dei rapinatori, hanno mostrato le facce dei rapinatori. Sentiamo Luca Longo, quello che ha promosso l'iniziativa. Quanti commercianti hanno deciso di mettere i manifesti del rapinatore che stiamo vedendo ancora? 250 commercianti, e partirà anche a Torino la stessa iniziativa. Lo mostriamo, ci stiamo esponendo per una cosa più grave, al di là di una denuncia, di una querela, è quella di metterci a rischio contro i criminali. Capisco qual è il problema di mettere la foto del rapinatore, evidentemente proveniente dalle telecamere, eccetera, davanti ai negozi. Cioè, non capisco questa paura che la gente cerchi una legalità che evidentemente non trova nello Stato. Cioè, francamente, non è come la storia della pistola, no? Cioè, non, se uno può prendere una pistola regolarmente registrata, non si capisce perché, oddio, la paura delle armi. Ma non c'è nessuna paura delle armi. Perché la difesa è demandata e l'uso allo Stato. Ok, allora uno non può prendere mai la pistola. Ti ho abboliamo le pistole, a dire abboliamo le pistole. Pure in alcuni stati degli States stanno mamma mia, mi sto ammazzando. Stanno rivedendo la normativa sul porto d'armi. Ma chi se ne frega di quello che fanno in America? Tu ti ecciti, questa è la verità, di queste nonnine del nord-est che vogliono trasformare il sono Veneto nonnine, non e la ma nonnine che anziché fare la calzetta o fare la polenta concia o fare le lasagne, sparano. Cioè, telefonano e sparano. Ma che c'entra? Al balcone, certo, certo. Arriva uno in casa, io sparo, certo. Allora, certo. Sta succedendo una cosa incredibile alla Camera dei Deputati. Con tutte le cose che ci sono da fare, con tutte le leggi che ci sono da proporre, si propone una legge. In realtà la cosa, il dibattito purtroppo va avanti da un paio di anni, da quando esiste questa legislatura, per istituire una giornata in ricordo delle vittime dell'immigrazione, se non sbaglio. Bello. Bellissimo. Ma come bellissimo? Cioè, con tutte le cose che giro, una giornata per... Allora facciamo una giornata per le vittime del cibo avariato. Cioè, perché no? Ma guarda che incredibile. Perché no? Ma tu stai parlando sul serio? Assolutamente, cioè, sul serio. Paragoni i morti di Mare Nostrum, i ma morti perché migranti, non sai perché sono meno degni quegli con altri? Con il cibo avariato. Ragazzi, la giornata. Siamo alla follia. Ma tu sai che gli immigrati italiani, vabbè, quando andavano in Svizzera, tu sei a favore di quelle istituzioni di questa giornata? Beh, serve, certo, come la giornata per la Shoah, come la giornata per la memoria. Ma perché 365 giorni? Facciamo un giorno ogni giorno dell'anno una giornata a favore di qualcuno. Facciamo un giorno per le contro gli obesi. Sì, contro l'obesità, le coglionate le dici tu, ma innanzitutto non le dico io, le dici anche grosse, ma come non ti preoccupare. Io penso di non dire coglionate, invece tu sì. Pensi di dire cose, esatto, solo bravo. Intelligenti, per carità, adesso telefoneranno i soliti quattro, ringhieranno come sì, cani, i soliti quattro, i tuoi ascoltatori. Ma sì, ma non i solo tuoi. Tu continui a ostinarti che alcuni di ma quelli che insultano noi, ma abbiamo sono con gli noi, ascoltatori, sono i tuoi c'è una grande parte che ride di questi che chiamano, di questi bifolchi. Ma abbiamo con noi Daniela Santanchè, buonasera. Buonasera. Buonasera, certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. Ma guarda, ma è arrivato il soccorso rosso, anzi nero. Cioè, è arrivato il soccorso nero. Ma facciamo la giornata per le donne che vengono ammazzate nel nostro paese, no, uno ogni due giorni. Possiamo non fare nulla? Cioè, possiamo non fare una giornata per, ecco, io direi di non fare una giornata per, nemmeno. Facciamo qualcosa per la sicurezza, perché vi ricordo che questo governo ha depenalizzato i reati sotto i 5 anni, l'omicidio colposo, l'illegalità, l'accattonaggio. Vabbè, adesso non è che l'accattonaggio. No, però scusa, reato, perché non è un reato l'accattonaggio, no, l'istigazione dei minori all'accattonaggio. Non è che adesso... è un reato, perché gli zingari fanno questo, e cioè, chiedere è la carità è un reato, la povertà è diventata un reato ora. Interessante. No, mandare i minori sì, però mandare i ragazzi, mandare i minori è assolutamente la mia un amica reato. Danielina, sempre bellissima, con i capelli a posto, ma perché non è un reato mandare i minori, mi dice che la povertà è un reato. No, magnifico. Non ho detto che la povertà. Sì, state sostenendo che la povertà è un reato, è meraviglioso. E poi a dei minori l'accattonaggio, come fanno gli zingari, che poi li mandano a rubare, no? Abbiamo visto l'intervista delle due zingare, sì, che si fanno 1.000 euro al giorno. Sì. Cioè, questi sono i problemi del nostro paese. Questi, che sì, qua non c'è più la certezza della, vabbè, pena. Non è che adesso il governo Renzi, ma no, adesso non c'entra niente Renzi adesso in questo, dai, su. No, chi l'ha depenalizzato? Vabbè, ho capito, ma non è che adesso c'è meno sicurezza con Renzi, questa non è così. Ma sai cosa vuol dire depenalizzare i reati? Vabbè, sì, adesso non addentriamoci in questo. Io voglio però, a proposito della vicenda Diaz, dire una cosa. Il padre di Giuliani, il padre di Carlo, persone incredibili. Ma stai zitto un attimo, il padre di Carlo Giuliani ha detto che al Presidente della Repubblica, ha scritto al Presidente della Repubblica dicendo che lo Stato dovrebbe chiedere scusa. Io adesso divento pazzo per questa cosa qui. Allora, dovrebbe, io vorrei che chiedessimo scusa che abbiamo inaugurato, che qualcuno ha voluto inaugurare una sala Montecitorio a nome di suo figlio, perché ve lo dico da madre, che certo non è stato un esempio il povero Cristo, perché sa, cercare di spaccare la testa alle nostre, sì, forze dell'ordine come un istintore, io non credo che sia un esempio per i nostri figli. Ma lei è andata in quella sala qualche volta, in quella stanza? Ma no, io mi vergogno che ci sia una sala intitolata Giuliani. Non c'è mai entrata lei? No, non ci sono mai entrate, faccio finta di dimenticarmelo, perché vorrei che le sale dei palazzi delle nostre istituzioni fossero intitolate ad eroi, non a gente che va in giro, cioè, con la faccia coperta a tentare di uccidere le forze dell'ordine spaccandogli un... Giuliani che cos'era secondo lei, un delinquente? Giuliani era uno che aveva un estintore in mano e che voleva fracassare la testa a un carabiniere. Per cui non dobbiamo chiedere scusa, diciamo. Ma dobbiamo chiedere scusa di chi? No, e che ne so, il padre lo dice, che scrive, ma dobbiamo chiedere scusa. Dobbiamo proporre alle famiglie che si occupassero dei loro figli. Questo dobbiamo, per cui è lui che è il padre di Giuliani, che Giuliani deve, però, è il padre di Giuliani, ricordo il dettaglio, che è morto per il dolore dei genitori, perché sono madre, quindi innanzitutto rispetto quello, per il dolore, però è lui che dovrebbe chiedere scusa per quello che ha fatto il figlio. Il dolore dagli atti, dalle azioni, dalle reazioni e dai fatti. Lei sa che nello Stato di diritto lo Stato, quando uccide un cittadino, comunque deve rendere conto, perché questo, vabbè, di questo quello, si tratta, quello è vabbè, ma questo chi se ne frega, dai, ma quello che c'entra, no, ma dico il padre di Giuliani, lei Parenzo che porta suo figlio ai giardinetti con la carrozzina, vabbè, domani cosa gli insegna? Fracassare la testa ai carabinieri con le colline? Cioè, il padre che porto col carrozzino, certamente, che è vero. Non insegni a tuo figlio di... questo è fuori dubbio. Insegna a fracassare la testa ai carabinieri con gli istintori? Ma neanche il padre di Giuliani ha insegnato al figlio a fracassare... Infatti, io non me la prendo col padre, me la prendo con noi, con quella parte politica che ha pensato che era un bel esempio intitolare un'aula di Montecitorio in un a conflitto. Questo ragazzo. Oggettivamente non c'era bisogno di intitolare una stanza a nome di Giuliani a Montecitorio, diciamo la verità. Non c'era assolutamente io voglio capire se il padre intitolare una stanza a Giuliani, lo dico da madre. Ma è il padre che deve chiedere scusa allora per quello che ha fatto il figlio? No, il padre non deve fare niente, deve tacere. In realtà il padre di Giuliani chiede scusa e chiede a Mattarella che lo Stato italiano chieda scusa per le frasi del poliziotto di ieri. Ancora a casa. Oh, è la voce di Dell'Utri, eh. Chissà che non cambi qualcosa dopo, non dico la soluzione perché non c'è stata una soluzione, dopo la decisione della Corte di Strasburgo su Contrada. Apro una piccola parentesi con Daniela Santanchè, ma secondo lei Dell'Utri andrebbe tirato fuori dal carcere subito dopo quello che è successo a Contrada? Ma io dico che sicuramente, visto quello che ha detto la Corte di Strasburgo sui diritti dell'uomo, che di fatto ha detto che non c'era chiarezza, sul a parte reato, che sì, ricordo che nel nostro codice penale non è reato. Il concorso esterno, sì. Il concorso esterno non è reato, ma viene dato reato. Per cui lei ha speranza su Dell'Utri, o no? Ma io voglio avere speranza, assolutamente la voglio avere. Certo, abbiamo visto che ci ha messo quanti anni? 8 anni con la Corte di Strasburgo. La ascoltate anche quando parla dei Rom, della tortura? chiedo. E la vergogna, no, la vergogna. Chi ha sbagliato deve solo risarcire. Ma la vergogna è anche usare la Corte di Strasburgo. Di sì, effettivamente 10.000 euro mi sembrano però un po'. Però usate la Corte di Strasburgo ad minchiam voi. Ma questa zanzarina che parla in sottofondo. No, tesoro, volevo dirti questo. Voi usate la Corte di Strasburgo. Tu la pigli per il culo quando la chiami tesoro. No, io la voglio bene veramente. Vabbè, dai. No, voglio bene. Comunque, oggi non si oggi no. No, però questa è un'obiezione che faccio, scusa. Però, ad minchiam usate Strasburgo. Strasburgo ci critica perché non c'è reato di tortura. Ma io non l'ho usata, l'hanno usata altri, io non la uso. Ma, prendo atto, non uso niente. Prendo atto che facciamo sempre delle figure di palta. Ecco, anche sui rom la Corte di Strasburgo ha detto che l'Italia è in deficit. Che da magistrato, poi si è messo a fare il candidato e oggi fa l'avvocato che si riempie con la bocca ancora parlando di Contrada, ma quello è uno che si deve andare a nascondere, non è che uno che può ancora signor parlare. Ingroia, il signor Ingroia, ma io non sono ma la roba è imbarazzante, questo paese non se ne può più, è imbarazzante. Ma signora Santa, perché lei sta col poliziotto? Cioè, in fin dei conti poteva anche... Io sto col poliziotto, scusi, io sto con il poliziotto e se quella zanzarina non mi interrompe, glielo spiego in 30 secondi, perché sto col poliziotto? Perché il poliziotto ha detto io andrei altre mille volte perché sono entrato, non ho commesso nessun reato, ho fatto il mio dovere da servitore dello Stato. Dici perché sospenderlo? Quindi lo rivendica. Gli è andato del fascista, ricordo che peraltro questo signore vota Partito Democratico. Sì, l'ho detto a noi ieri, ma a me poco mi interessa che voti PD. Appunto. Io sto senza se e senza ma con lui, perché è un servitore dello Stato. Però ha dato del verme a Carlo Giuliani e poi si è pentito e ha chiesto scusa. Però ma io guardi, del verme a Carlo Giuliani non glielo ho dato, ho detto che comunque non c'è da... il sentimento comune, lei... ma voi andate in mezzo alla gente, ma vi pare che sono dicono? Convinti che bisogna dare l'aula intitolata giù, comunque a Giulia, ma che c'è del sentimento comune? Ma io voglio capire una cosa. Ma scusi, perché lei si stupisce che io sto con poliziotto? Non capisco. No, io figura, l'abbiamo intervistato ieri, è stato 20 minuti con noi, cioè... Ma io però sono anche l'unica che ha avuto il coraggio di Salvini l'ha detto, Salvini e altre persone l'hanno detto, ma il problema è un altro. Se voi andate sul mio Twitter mi stanno insultando da quando io ho twittato questa roba. Però ha dato delle zecche ad altre persone, cioè per un funzionario dello Stato magari si è espresso un po' troppo liberamente secondo me non va sospeso, secondo me non va né sospeso né sanzionato. Perché va sospeso? Ma Alfano, io vengo adesso, finito un'ora fa, di partecipare ai funerali di Stato di Lorenzo, quell'avvocato. Vabbè, quello che ha ucciso quel dico Alfano, pensasse a questo. Ah, non a sospendere, non pensasse a sospendere, cioè bisogna un dargli una medaglia dello Stato, bisogna... che fa il suo dovere, bisognerebbe dargli Alfano una medaglia. Si vergogni per quello che ha pronunciato. Non ho capito, bisogna dargli la sicurezza, che abbiamo un colabrodo in Italia. Bisognerebbe dargli una medaglia al poliziotto, dice lei. Premiarlo. Bisogna portargli il rispetto. Non dico che dobbiamo dare nessuna medaglia, dobbiamo dargli il rispetto per quella idea che lui ha giusta di servitore dello Stato. Però ha dato del verme a Carlo Giuliani, ha dato del verme a Giuliani, bisogna dirlo. Ha dato del verme, poi si è pentito e ha chiesto scusa. Voglio dire, non è grave, non è grave. Sì, ma capite, come dire che il lessico, ci preoccupiamo del lessico e non della sostanza. Fermi tutti, grazie. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante, mamma mia quante cazzate che dice. Beh, che grande regalo che abbiamo ricevuto, caro Davide. Abbiamo ricevuto veramente un grandissimo regalo. Un grande regalo, una specie di messaggio particolare ai conduttori, agli ascoltatori della Zanzara, da parte del neo presidente della Repubblica Mattarella. Neo presidente. Sì, ma è una cosa incredibile. Ma strano, l'ho visto ieri sera al film di Veltroni e non mi ha detto niente. Non l'ho incrociato. Beh, l'hai intravisto, c'erano le guardie del corpo. Non è possibile. Ero a due file di distanza. Vabbè, non mi ha detto mi saluti Cruciani. Non ha detto niente. Nulla. Per questo sono un po' basito. Però stamattina bene. Forse ti ha intravisto. Forse ti ha intravisto. Ha meditato. E alla fine ha mandato questo messaggio. Sentite. Questo. Desidero ringraziare molto il presidente Squinzi per l'invito così cortese che mi ha rivolto sulle reti unificate di Radio 24. Le nostre relazioni hanno un tasso di univocità, di condivisione e amicizia che contribuisce a rafforzare la spinta verso una fattiva collaborazione in tempi di crisi. Mi permetta, Presidente, di esprimere viva preoccupazione auspicando la rimozione di due individui particolarmente pericolosi per il nostro Paese, quali Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Viva l'Italia! No, però scusate, mi avevano annunciato un messaggio positivo, in realtà è una lettera squinzi in cui auspica la nostra rimozione, il Presidente della Repubblica. Capisco che mi hanno detto, è arrivato un messaggio da parte di Mattarella, un messaggio alla Zanzara, un messaggio di auguri, di auspicio alla Zanzara. Mi hanno fregato. Auguri, cioè, la direzione del Sole 24 Ore, i vertici del Sole 24 Ore, c'è un messaggio importante di Mattarella. Ma noi tanto abbiamo il senatore napolitano dalla nostra. No, veramente quello è napoletano. Ah, l'altro dici, no, senatore a vita. Ah, beh, sì, è vero. Il direttore massimo, il governatore, sì, assoluto di tutta questa straordinaria. Beh, adesso governatore, beh, direttore, capo, vabbè. Assoluto, governatore. Vai, il governatore. Mentre noi abbiamo dalla nostra il senatore a vita napoletano Giorgio, che con noi ha un rapporto storico. Strettissimo, no? Molto stretto. Beh, allora, devo dire una cosa. Gli animalisti se la prendono con una cacciatrice, la signora Rebecca Francis. Rebecca Francis è una cacciatrice. Che si è fatta riprendere con una giraffa uccisa. Una giraffa uccisa. Beh, non è il massimo. Beh, ho capito, ma ragazzi, ma è legale uccidere? Tra l'altro si paga un sacco di soldi. Io una volta ho conosciuto un cacciatore di rinoceronti, di elefanti, italiano. Animali da proteggere, dal cognome anche quelli. Chiacchierato, non lo ma posso perché dire. Devi cacciare i rinoceronti e le giraffe? Non è che lo fai illegalmente, quelli sono i bracconieri che lo fanno. No, ho capito. Ah, questa, però qua questa qua è una cacciatrice piuttosto, come dire, seriale, e pubblica regolarmente foto di se stessa in posa accanto a orsi, giraffe, bufali, zebre, tra gli altri animali. Qual è il problema? Non ho capito qual è il problema. Cioè, perché deve essere minacciata quotidianamente? D'accordo, ma ognuno, io non caccerei mai nessuno. Io penso a elefanti, rinoceronti. Tu lo sai i messaggi che le hanno mandato? Allora, il mondo sarebbe un posto migliore senza di te, è uno dei migliori che sono arrivati, eh. Cioè, tipo, posso venire, ma l'unico proiettile che userò sarà quello che metterò nella tua testa. Cioè, uno non può nemmeno oggi andare in giro dove è permesso a cacciare orsi, rinoceronti, eccetera, eccetera, perché viene minacciato da un gruppo di pazzi. Ma basta con queste robe qui, basta. Battetevi per l'eliminazione della caccia in tutto il mondo, va benissimo, di questi animali, per carità, legittimo, quello che volete, ma non rompete i coglioni a chi lo fa. E poi questi pagano un sacco di quattrini. Questo tizio che mi ha raccontato delle cose molto interessanti, che ha cacciato anche delle zebre, si era fatto delle poltrone. Ma dai, ti faresti mai tu una poltrona di zebra? Ma non perché abbia pietà nei confronti delle zebre. Ma sì, ma perché sono specie poi protette, dai, ma scusa. Ma non è che l'ho fatto illegalmente. Ma lo faresti l'ho mai fatto una legalmente di pagando foca. Un sacco di soldi. Ma è sbagliato che sia legale questa roba qui, questo si può dire o no? In alcuni paesi africani fanno i soldi, tanti soldi, li vuoi lasciare in povertà? Li vuoi lasciare morire? Oh, bella. E allora? Guarda che è bella questa adesso. Cioè, l'unico strumento che hanno per avere anche dei soldi è fare la caccia. Tu lo sai quanto costa? Tu lo sai quanto costa ammazzare un elefante in Africa? Ma immagino tantissimo. Ma una roba tipo 200-300 mila euro. Ma perché? Perché è un animale in estinzione, no? Perché è un animale. Mario, provincia di Chieti, 800240024. Vai, Mario. Incredibile, tutto ciò che è assurdo. Salve, buonasera. Dimmi. Volevo dire a Parenzo che è un razzista. Perché? Io, eh? Perché lunedì sera ha chiamato un signore di... Sì, lei. E lunedì sera ha chiamato un signore di Bari che ha detto delle cose opinabili. Molto opinabili. Va bene. Lei, ma su che lei, cosa? La questione dei campi rom, che lui... Sì. Che sono tutti ladri. Vabbè, queste le solite cose. Vabbè, allora le solite, beh, solite cose, ma non è che... Ma anche se sono solite vanno bene, però. Vabbè, dunque... No, non ho detto questo, non è questo il tema. Sto dicendo che lei lo ha ha scimmiottato mentre lui parlava, lei lo prendeva in giro scimmiottando la parlata barese, cosa vabbè, che ci può pure stare, mica il razzismo, dai Mario, non esagerare, Giuseppe, un campione del politically correct queste cose non le può fare, Mario, dai, non le può fare. Ecco, allora voi siete politicamente corretti, voi siete scusatemi, io che c'entro con Mario, sto dicendo che hai ragione tu, ma che vuoi? Se va bene, allora se va bene, non è, allora io dico a Parenzo: o stregheta, tu vai con la gondoletta e vai a bere il ma vino. Ma quello se nella ne fotte, mica il razzismo questa roba qua. Ha fatto il verso, al dialetto, lo fa col bergamasco, lo fa col barese, lo fa col napoletano. Dai, su. Giuseppe, tu queste cose non le sai perché sei romano. Io ho vissuto 15 anni e so che lui Parenzo è il classico settentrionale razzista. Ti stai facendo veramente un problema che non è. Ti stai facendo un problema che non esiste. Ti stai facendo un problema che non esiste. Ti assicuro. Un problema che non esiste. Quando fanno Massimo dalla provincia di Varese. Mario, ho capito. Abbiamo risposto. Basta. Massimo, provincia di Varese. Dai, su. Buonasera Cruciani. Buonasera. Vai Massimo, dimmi. Io chiamavo perché volevo dire qualcosa sul discorso della GIA. Sì, vai. Secondo me una persona così non dovrebbe più fare il poliziotto, non tanto perché è indegno. Non dovrebbe più fare il poliziotto, se non l'ho capito male. Non tanto perché è indegno, ma perché è pericoloso. Gli si mettono in mano delle armi e è una persona pericolosa, secondo me. Quindi io voglio avere fiducia nella mia polizia, non voglio aver paura. Sì, l'ho detto Parenzo anche ieri sera. Ragazzi, questo qua ha espresso una sua opinione anche forte su Facebook. Non è stato mai indagato per nulla, non ha precedenti penali. Mi risulta che abbia fatto sempre bene il poliziotto. Ha espresso delle opinioni e probabilmente verrà sanzionato per questo. Ma la rimozione, no, ragazzi, la rimozione è una follia. La rimozione è una follia. Sarebbe una follia. Sembrava, vabbè, ha dato del verme a Carlo Giuliani. D'accordo, sarà sanzionato per questo. Ha chiesto scusa. Ci inchiniamo tutti di fronte al signor Giuliani. Io non mi inchino per niente. Punto e basta. Dopodiché, cacciare uno dalla polizia per questa roba qua mi sembra veramente una roba ridicola. Dai, su. Uno si inchina di fronte al dolore degli altri. Ma io non mi inchino di fronte a nessuno. Vi sentivo la radio, ho sentito la signora Santanchè che parlava tanto di vergogna. Che si vergogna che ci sia un'aula dedicata a Carlo Giuliani. Io trovo anche questo una cosa assurda, c'erano tante persone qui titolare le ha un'aula, a parte che non bisognerebbe titolare l'aula a nessuno, la camera, nessuno, chi se ne frega, nessuno. No, ma l'aula no, in stanza no, in stanza, ma perché blu. Qual è il problema, non ho capito, cioè, perché sono dei simboli, capisci, come c'è la stanza al Domoro, Carlo Giuliani è un simbolo, ma non Carlo Giuliani è un simbolo, in generale non bisognerebbe uno con l'estintore in mano, col passamontagna è un simbolo, quella è una scelta di violenza, è un simbolo di violenza, è una scelta discutibile, ma sicuramente l'idea di titolare delle stanze delle istituzioni a qualcuno ha una sua logica, va bene, d'accordo, però blu, a qualcuno che è stato rossa. Presidente del Consiglio, a gente delle istituzioni, non a Carlo simboli. Giuliani, cazzo, infatti, è tutta l'Italia d'accordo con questa follia qua, ma che fu decisa all'epoca, tutta l'Italia è d'accordo, tutta l'Italia, tutta, che è giusto, ma non è questione di questo, è questione che intitolare una aula della Camera al signor Carlo Giuliani, per cui ho rispetto, è morto, la famiglia, quello che vuoi, è una cosa ridicola, una cosa politica decisa dalla sinistra quando governava la... Sì, sicuramente è stata ma una non scelta ha sen- politica, ma perché non ha senso, non perché non ragione. Ha senso, non ha senso. Allora, perché non c'è un'aula Garibaldi? Bellissimo. Allora, Garibaldi non c'è. Non c'è magari un'aula Garibaldi. Un'aula ma ti pare possibile che non ci sia un'aula Garibaldi o un'aula Cavour? Ci sarà magari. E ci sarà un'aula Carlo Giuliani? Ah, dai, su. Abbi pazienza. Ma ci sarà un limite a tutto. Manuele, provincia di Pisa, dai. Ciao ragazzi. Dimmi. Una domanda per Palenzo, io non ho capito bene. Secondo lui, i rom e i cittadini italiani normali, diciamo, sono uguali o sono diversi? Sono uguali in che senso? No, hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri. Chi ruba, no, ma non parlava ruba. Di non parlava sia di furto, credo. Robo, Manuele, cosa? Che volevi dire? No, volevo dire appunto se secondo lui ci sono delle differenze sociali o meno. No, dipende, voglio dire, se un povero italiano e un povero rom per me pari sono, perché se è la povertà e il degrado che va combattuta, su allora, questo per me non c'è ombra di dubbio. La povertà è un elemento comune, quindi perché alla povertà dei rom bisogna reagire differentemente. Chi ha detto differentemente? Nessuno dice differentemente. Il dato di fatto è che quando c'è stato lo scandalo delle case popolari gestite in modo disastroso riguardava cittadini italiani e non, lì si è detto di intervenire. Vedi il caso di Milano, ad esempio, dove c'erano. Vabbè, ci non sono, hai risposto a Manuele dalla provincia di Pisa. Perché dice: come? Hanno gli stessi diritti, hanno gli stessi certo doveri, gli uguali stessi agli altri. Benissimo, certo, si cerchino casa come tutti gli altri. Certo, abbiamo la borsa e ma nessuno affitterebbe mai una casa a un rom. Ma non lo so, ma se ne vada. E infatti, no, guarda, ieri Feltri anche ti ha detto, oggi. Ieri Feltri che cosa ti ha detto? Che se uno dà delle garanzie bancarie ed è solvibile, poi affitterebbe sì, tranquillamente una casa in Roma. Senso, questo è il buon senso di se Feltri, una famiglia infatti. Mi dà delle garanzie dopo bancarie, c'è la appunto. Storia reale, ci sono le cose le reali, reali. Certo. Cioè quella scusa, melma ma se uno si presenta, che noi si ogni tanto facciamo ascoltare, oddio, che è melma. Una parte del paese purtroppo che ogni tanto chiama qua sì. E ti dice ad esempio mai affitterei una casa a un rom, perché te lo dico, scusa, ma la fotografia della bestialità uno ha diritto, ce l'abbiamo ogni ha diritto giorno. Ad affittare la casa a chi vuole, ma questo oppure no? Ti sto no, non c'è diritto però, nemmeno questo ti sto dice, ma dobbiamo ti sto affittare dicendo... per forza la casa ai rom. No, ma scusami però, vuoi ma obbligare gli italiani ad affittare la casa a una famiglia rom? Un momento, un minuto e 40, ma mettiamoci d'accordo. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Dobbiamo ridere, bisogna dire puttanate perché abbiamo bisogno di ridere. Intanto in Liguria è stata indagata per la vicenda dell'alluvione la candidata del Partito Democratico alla presidenza della regione, indagata per la vicenda dell'alluvione, certamente per il Partito Democratico adesso bisogna prendere una decisione perché molti già chiedevano le dimissioni dei sottosegretari, anche certo. Loro indagati, ora è indagata pure il presidente, anzi no, è il presidente, casino, l'aspirante presidente del Partito Democratico, vediamo come si mette, vediamo è come si mette. È tutta una figura di palta, dai. E poi ragazzi, il politicamente corretto è la follia dell'antirazzismo, dell'omofobia diventa... Ascoltate bene. Allora, tu li conosci... Eccolo che arriva. La conosci la catena Abercrombie & Fitch, no? Abercrombie & Fitch, famosa c'è catena di abbigliamento. C'è una cosa a Milano, allora, mi pare, no? Praticamente hanno deciso di fare una pubblicità in cui hanno scritto chiaramente che vogliono i più alti, i più magri e i più bianchi possibili. Così. E i più alti, i più magri e i più bianchi possibili. Un'azienda fa scelte di marketing sue. Li hanno denunciati per razzismo. Cioè, i modelli all'ingresso di Abercrombie & Fitch dovevano essere così. Questo era l'annuncio. No, l'annuncio era questo. Tu sei mai stato a Milano al negozio che c'è lì vicino a Il problema fondamentale è che basta con queste cose. Se un'azienda vuole i modelli per fare la pubblicità, ma sì, certo. O per fare gli inservienti, no? Le persone che lavorano nel negozio, i dipendenti, alti, tu hai mai visto magri uno scorpio fare e bianchi, una non rompete le balle. Ma tu hai mai visto uno fare la pubblicità di un appunto, allora dovrebbero essere denunciati. Hai mai visto un gobbo tu fare? Anche le associazioni degli obesi o l'associazione di quelli brutti o sì, non so non chi potrebbe denunciare l'Abercrombie & Fitch, no? Eravamo con Massimo, dai, chi c'era? Massimo? Massimo, ci sei ancora? Massimo non c'è, Paolo Cosenza, vai, Paolo. Senti, dimmi. Buonasera a tutti. Senti, io volevo dire, perché non gli fate le domande al poliziotto perché sono circondati di odio questa gente, quotidianamente? L'altra volta sono stato fermato ad un posto di blocco, io ho 50 anni, ho cresciuto mio figlio con il senso civico. E che è successo? Quotidianamente di legalità. Dammi patente e libretto, io ho 50 anni con mia moglie, mio figlio gli ho dovuto dire no che era un amico, si è comportato così perché è un amico, lo conosco. Una tale maleducazione, l'altra volta sono andato allo stadio, mio figlio di 10 anni ha visto di nuovo un poliziotto, si è spaventato. Perché va bene, non diciamo questo? Paolo, perché ma non è che non lo diciamo, lei lo sta dicendo adesso, lo stai dicendo Paolo, siamo tutti d'accordo, cioè qualche volta si comportano male anche i poliziotti, non c'è dubbio, ma non è il metodo, cioè non è il metodo, cioè non è la... Non lo so. Però io purtroppo, caro Cruciano, ho dovuto dire a mio figlio, stai attento dai delinquenti, tieniti dalla larga dai delinquenti e purtroppo dai poliziotti. No, tieniti dalla larga dai poliziotti, io sono sempre sicuro quando c'è un poliziotto, dai, non diciamo stupidaggini. Ma lo so, però guarda, quando paghi le tasse ti togli il mangiare dalla bocca per essere sempre a pagare tasse, essere un cittadino onesto, crescere i figli onestamente. Ti trovi ad un posto di blocco praticamente, sì, no? Sì. Cioè, e ti trattano male, guarda che ti senti veramente... Vabbè Paolo, sei stato trattato male a un posto di blocco, d'accordo, siamo tutti con te, per carità, fai le tue denunce, fai le tue cose, ma non è che uno... A me mi hanno fermato tante volte a un posto di blocco, non è mai successo niente, abbi pazienza. Enrico d'Ancona, ciao Paolo, Enrico ancora, vai. Pronto? Sì, dimmi Enrico, vai. Ciao, ciao Giuseppe. Ciao, dimmi. Io, a differenza invece di quello che ha parlato prima di me, sono tutta la polizia. Faccio 120 km, 1000 km all'anno, mi fermano spesso, nessuno mi tratta male. E allora? La polizia. Casomai, in merito alla questione Giuliani, sì, caro sì. mio, altro che lo Stato chiedere scusa a Giuliani. Lo Stato ci deve chiedere scusa a tanti altri, magari, non so, a quelli dell'aereo Italia. Però, scusa, il padre di Giuliani chiede a Mattarella che lo Stato chieda scusa. Ma che non rompessi... Ma che deve chiedere scusa? Devono chiedere scusa... No, per conto del poliziotto che ha chiamato verme e figlio, certo. Per quello è evidente. Il poliziotto lui ha svolto il suo servizio regolarmente, non mi risulta che sia indagato. Ha dato del verme a Giuliani. Guarda, il verme forse è un termine un po' forte, io gli avrei dato del pompiere mancato piuttosto, ma non del verme. Ma adesso che uno debba andare a voler ammazzare, io guarda, me le ricordo quelle immagini della camionetta, ma dei quello tre è un funzionario dello Stato, ma quello lì, ma come mio, fate a non pare, capire figlio mio, abbi, è un paretto, funzionario dello parlare. Stato, non fammi è un, parlare, un coglione qualunque che chiama, ma dai, abbi, ma non capite paretto, più niente ormai, è la libertà no, di stupidaggine tu assoluta. Tu te le ricordi le immagini della camionetta stretta contro ma il certo muro, che me le ricordo, ma quelli lo ammazzavano, ma quello tu o uno ho capito, ma c'è da una parte il rispetto del padre difende, per la morte del figlio dici? E dall'altra un funzionario dello Stato con la divisa che ha scritto una sciocchezza. Va bene, allora quello è il figlio, il padre, che è il figlio che va a fare una rapina in banca e spara il poliziotto gli spara, il poliziotto deve chiedere scusa. No, però stiamo parlando di un'altra cosa qui, non stiamo parlando di Placanica o di Giuliani, stiamo parlando di un poliziotto che ha dato del berma a Carlo Giuliani. Però secondo me bastano le scuse, bastano le scuse del poliziotto. Adesso pure Mattarella, lo Stato, non esageriamo, dai, su. Ha chiesto scusa il poliziotto, il padre di Carlo Giuliani si può accontentare delle scuse ieri sera da noi alla Zanzara, oggi. Adesso Mattarella deve chiedere scusa. Ci sono dei passaggi che possono essere simbolo anche, come dire, di riunificazione nazionale su alcune robe. Ma non c'è nessuna riunificazione da fare. Beh, come no? Ci sono delle ferite aperte. Scusami Parenzo, il verme posso essere d'accordo. Il conto è l'istituzione che chiede scusa di che cosa? Ma non c'è neanche da discutere, non voglio neanche discutere di questa roba, perché è assurdo discuterne. Scusa, è un fatto personale. No, ha chiesto scusa, Mattarella non c'entra niente. Questa dai, idea stupida per cui si può dire tutto e nessuno paga mai per niente. Chi ha detto? Ma che tanto, ma sì, ma chi se ne frega? Mattarella. È una parola, è una frase. Nessuno paga mai per nulla. Le frasi ho capito, ma uccidono. Ma scusa, ma Giuliani, se vuole, il padre di Carlo Giuliani, quello se vuole, dello querela, Stato, ha sbagliato querela, a scrivere su querela, Facebook, querela, porta ma in tribunale il poliziotto. Il capo dello Stato, che rappresenta che cosa tutti, non gli costerebbe nulla dire una parola e anzi potrebbe chiedere essere scusa anche alla famiglia, un modo, a nome dello Stato, nome chiedere dello scusa Stato, alla famiglia a nome dello Stato. Quello è un funzionario, cioè, possiamo, dello Stato. Dobbiamo arrivare a chiedere scusa alla famiglia Giuliani, vabbè, perché un poliziotto gesto, ha dato del berma a figlio. Ma io capisco che per te chiede no, va bene, scusa va benissimo, per te per carità. Impossibile. Ha chiesto scusa al poliziotto. Stato è un'altra roba, ha chiesto da scusa al poliziotto. Ma che c'entro io adesso? Ma io non c'entro niente adesso. È una cosa più complessa. Va bene Enrico, ho capito benissimo. Donato Varese. Simboli e fatto Donato. Ah, ma tu sei d'accordo con la scusa, per carità, ma mica ho detto che sei un criminale. Donato Varese. Con quello stronzo di Parenzo. Oh Donato, ben trovato. Saluti a dimmi. Casa, buonasera. Dimmi, buona, dimmi. Io voglio, allora, Parenzo, sì. Io vorrei sapere tutto quello stronzo, io lo chiamo stronzo Giuliano nel senso stronzo, perché è stato così stronzo per andare a perdere la vita a fare stronzate in un paese raso a suolo da quegli sporchi comunisti, d'accordo? Vabbè, adesso no? Che c'entra questo? Allora vorrei sapere, a posto di Giuliani, se ci fosse stato un estremista di destra, staremmo ancora a parlare di questo Giuliani di merda? Staremmo ancora a parlare? Stai tranquillo. I ragazzi che vengono uccisi sulle strade dai rumeni, dagli sporchi zingari che guidano senza patente. Allora, qualche Stato in onore a questi poveri disgraziati che non andare in giro che gli si Donato, però la polizia. Non si sente pietà niente per i matti, pietà per i matti. Però ho scusa, se tu, se tu cerca di articolare, ma non c'è articolare, è matto, pietà per i matti. Questo. Dimmi, dimmi. E allora, i ragazzi, i figli di mamme che vengono uccisi sulle strade perché ci sono gli zingari, i rumeni, perché se qua la gente non è pieno, non mi pare che ci sia pieno di morti sulle strade per colpa dei rom e degli zingari. No, cosa è quello delle Marche che hanno ammazzato 6 o 7? Ti sto dicendo che anche a Quarto Giaro sono morti un sacco di ragazzi perché gli zingari guidavano le macchine senza patente. Ma questo che c'entra adesso? Ragazzi, quei ragazzi, la vita di quei ragazzi è superiore più di uno stronzo che va a attaccare un poliziotto. Ma dimmi un po', che cazzo faceva lì quell'idiota, ideologicamente comunista di merda? Che cazzo c'era a Genova? Io voglio sapere che cazzo c'era di negativo a Genova che si era da sola. Questo sulle ragioni della protesta posso anche concordare con te, Donato, però se tu continui a esagerare con questi toni, poi mi costringe a dire guarda che poi c'è il padre di Giuliani che te querela e poi querela pure noi, molto bene. Succede un casino, capito Donato? Però comunque vai, hai detto la tua su Carlo Giuliani, che devo fare, che devo aggiungere? Addio, chiudilo, basta. Donato, in quel paese. È stato intimato dal governo turco. Per dire, volevo dire, pezzo di merda, stai attento che adesso noi ti mandiamo qui 100, come si chiama lì? Ma chi? Ma di che stai parlando adesso, scusami? Della Turchia, armeni. Ma perché ti sei... 100.000, magari mandassero qui 100.000 armeni cristiani, glieli mandiamo noi 100.000 turchi. Vabbè, è impazzito. Donato, no, ciao. Non Donato, ha fatto effetto ciao. Quello che prende, in farmaci, dai. Ma scusami, ma tu sei fuori di testa, se... che ormai è tutto finito. Beh ragazzi, grande ritorno qui alla Zanzara. Parenzo, com'è che fa Lutwak? A noi pensa... Stati Uniti pensa, noi pensa che per combattere il terrorismo internazionale ci vuole caccia bombardieri? Sì. E non quelle odiose bandiere che metti tu su balconi, tu Agnoletti, Camussi, queste genti che cattiva, che mette bandiere di pace. Ma che c'entra Agnoletto? Noi scusa. Pensa che Agnoletti crea grande problema. Agnoletto, Italia. No, Agnoletti. Non conosco. È un uomo pericoloso per l'Italia. Pericoloso, e noi dai. Americani pensa che con grande F-24, che non è dichiarazione di redditi F-24, altro grande problema italiano, sì. È bombardare. Cioè, ISIS è lì perché il signor Agnoletto ha permesso. Ma che c'entra che quello con l'ISIS? Agnoletto amico di ISIS. Dai. Noi bombarda. Ma non c'è bisogno di bombardare Agnoletto. Credo 25, 26, massimo 28 bombs. Di aerei e molte bombs, cluster bombs, quel bomb terribile che butti una e esplode in tutto e più volte rimane sul terreno. Ho capito. E questo è il grande problema d'Italia, si chiama Agnoletto. Agnoletto, e Camusso e altro signore con una felpa sì. rossa che dice di essere di metalmeccanico, non Landini. Mai visto la fabbrica. Landini, amico di Confindustria di Radio 24. No, assolutamente no. Ma no. Che ho visto quando sono andato a Tor Pignatara, erano insieme in questo borgo Vabbè. Popolare, Cruciani, grazie, Agnoletti, Lutwak. Landini, Camusso, no. Comunisti. Ma no. Sarebbe tutto molto semplice con un po' bombs, di bombardamento. Risolvi il problema. Cruciani, Radio 24, Camusso, Landini e Agnoletti. Vittorio Agnoletto, eccoci qui, come andiamo? Bene, bene, buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti. Come va? Come la va? Come la va? Senta, dico subito una cosa. Secondo lei questo poliziotto andrebbe cacciato dalla polizia? Quello che ha parlato ieri con noi a lungo, che ha detto pure che tra l'altro ha votato per il Partito Democratico alle ultime elezioni europee. Questo forse non stupisce, Agnoletto. Ma non lo so, la stupisce il fatto che abbia votato il Partito Democratico? Ma intanto non so se sia vero. L'ha detto lui. Se l'ha votato sì. È un problema in più per il Partito Democratico. Vabbè, d'accordo, però adesso non è che il Partito Democratico può rispondere del voto di tutti gli elettori. Insomma, no, però il Partito Democratico può rispondere di aver confermato ai vertici della polizia prima, dei servizi segreti poi e di De Gennaro, Meccanica sì. Poi, il capo di allora della polizia Gianni De Gennaro. Quello non c'è dubbio perché è stata una scelta di Renzi. Assolto da tutto, Sì, vabbè, dopo torniamo su De Gennaro, ma il poliziotto, secondo lei va cacciato dalla polizia seduta stante, dopo quello che ha scritto, dopo quello che ha detto in questi giorni? Direi che è assolutamente necessario un provvedimento disciplinare. No, ma va cacciato, quello che voglio dire da lei, sia esplicito, secondo lei? Io penso che non possa continuare a fare il poliziotto. E dunque va cacciato dalla polizia. Il poliziotto deve rispettare, far rispettare le leggi dello Beh, Stato. Beh, questo qua mica non l'ha fatto rispettare, non è stato mai indagato, non è stato mai condannato per nulla che riguarda il G8, qual è il problema? Il problema è che quanto ha dichiarato non è consono al suo ruolo, altro che difesa della Costituzione. Ma per favore, inneggiare a quella notte tremenda della Diaz, no, ma non... sì. con tutti i feriti che ci sono stati, le violenze e le torture è qualcosa che non deve fare nessun cittadino e tantomeno una persona in divisa, no? Però scusi Agnoletto, in realtà lui ha detto io ci rientrerei mille volte e poi ha spiegato il motivo di quella di questa frase qua, cioè lui ha fatto il suo dovere, non è stato ma voi mai... ci credete veramente? Cioè secondo lei che cos'è, un torturatore? No, non ho voglio dire, lui ha scritto quello che voleva scrivere, che sarebbe tornato dentro la Diaz, e nella Diaz sappiamo tutti quello che è accaduto, dopodiché ha visto che le cose si mettevano male, che qualche politica ha cominciato a pronunciarsi, ha sentito il suo avvocato e ha rigirato la frettata, e credo che questa sia la cosa più probabile. Cioè, secondo no? lei che cosa è successo? È successo che lui ha scritto quella cosa, voleva dire rifarei, ripicchierei altre volte le persone che ho trovato alla Diaz, dopodiché è successo il pandemonio, il casino, i giornali, i web, le radio, e poi si è tirato indietro. Ma secondo lei una persona può dire tranquillamente vorrei tornare dentro la Diaz, quando dentro la Diaz è successo quello che sappiamo? Ho capito, tutti, ma lui dice in giro. No, però scusi, Agnoletto, lui dice in realtà, però dobbiamo stare, perché non posso, non può valere per altri il principio di legalità, come dice lei su De Gennaro, certo, per altri e per questo no, cioè questo qua non è stato indagato, dice che il settimo reparto è stato l'unico, era l'unico identificabile, dice che ci sono state altre persone della polizia che probabilmente hanno commesso delle violenze, non è stato mai indagato. Allora, questo che sono state delle altre persone che il settimo non c'entra nulla è la cosa che tutti i poliziotti del settimo hanno detto da quando è cominciato il processo. E quando i magistrati gli chiedevano bene, allora chi è stato? Silenzio assoluto e totale. No, non dimentichiamoci che la maggioranza dei testimoni non ha accettato neanche di rispondere alle domande, si è avvalsa della possibilità di non rispondere. Cioè, è omertoso anche lui, dice lei. Voglio dire, se sa che è stato qualcun altro doveva fare i nomi, no? Ma lui dice di non aver visto nulla, nessuna tortura, nessuna violenza eccessiva. Niente, vedo, non sento, non parlo, cioè siamo le tre scimmiette, ma per favore. Comunque, secondo lei ha mentito. No, io penso che quello che ha scritto di getto su Facebook sia le cose effettivamente nelle quali crede. Non credo che abbia mentito, credo che creda a quelle cose lì. Ha inneggiato quanto è successo alla Diaz e credo che questa sia una cosa che non va bene. Dopodiché però il problema è che non è che ci abbiamo solo questo poliziotto. Vabbè, poi c'è la questione De Gennaro. È che c'è una questione di cultura diffusa entro certi settori della polizia, non certo tutta, e che questa cultura si tratta di capire anche da dove viene. Ma è una cultura fascista secondo lei? Beh, senta, come definisce quei poliziotti che sui loro cellulari avevano faccetta nera? Beh. O come definisce quelle forze dell'ordine che a Bolzaneto facevano cantare un 2-3 Pinochet? Per cui dentro la polizia, cioè, secondo lei c'è ancora una... Ma com'è che cantavano un 2-3 Pinochet? Un 2-3 viva Pinochet, il dittatore cileno. Cioè, secondo lei dentro la polizia 83. Ci sono gruppi di fascisti ancora operanti, diciamo, dopo ci 15 anni? Dentro la polizia ci sono gruppi di poliziotti che hanno una cultura di estrema destra e che hanno inneggiato il fascismo. D'altra parte... Però questo qua, scusi, il poliziotto tra l'altro ha detto che Casarini andava arrestato perché disse pubblicamente che la zona rossa andava violata. Lei pure disse che la zona rossa andava violata, se non sbaglio, prima di quei giorni là. No, in questo si sbaglia, nel senso che noi abbiamo sempre detto come Genoa Social Forum, ed io ero il portavoce, che avremmo circondato la zona rossa e avevamo proposto. Vabbè, non era proprio una cosa circondare la zona rossa, non era un annuncio proprio pacifista. Che è successo? Non era un annuncio pacifista circondare la zona rossa. Perché non lei si dimentica che stiamo parlando di presidi, iniziative tutte assolutamente autorizzate attorno ai cancelli della zona rossa. Ecco, dopodiché però il problema all'ordine del giorno oggi è com'è possibile che dentro la polizia ci siano culture di questo tipo, com'è possibile che ci sia chi ha inneggiato al fascismo facendo i cori nelle serate di Genova sentite. Ma questo è fascista cittadini? Secondo lei sto poliziotto qua è fascista? Io non so, non lo conosco questo, ma che ci sia una cultura anche di estrema destra è un problema. Allora vorrei discutere come avviene la formazione della polizia, perché abbiamo una polizia dove le persone arrivano direttamente dall'esercito, cioè vanno in esercito. Vabbè, questo è un altro discorso. No, non è un altro discorso, che cultura si portano dietro, cioè il cittadino deve essere difeso dalla polizia, però, scusi, non difendersi dalla polizia. Agnoletto, oggi il padre di Carlo Giuliani dice a Mattarella che lo Stato deve chiedere scusa per le parole del poliziotto che ha detto verme a Carlo Giuliani, poi si è scusato eccetera eccetera. Ma secondo lei è normale che sia intitolata un'aula della Camera a Carlo Giuliani? Ma guardi, Carlo Giuliani per me non è stato né un eroe né... No, è stato un ragazzo che ha perso la vita. Beh, quello non c'è e dubbio. Per il quale non si è fatto un processo per appurare come erano andati fatti. Ho capito. A meno che lei creda, ma se lo crede però me lo dica, a meno che lei creda che ci sia un proiettile sparato in aria che ha colpito un calcinaccio, il quale calcinaccio ha deviato il percorso. Cioè, secondo lei c'è ancora una verità che deve essere scritta, no, sulla morte di Giuliani? Io ho un bambino di 4 anni, ma credo che mio figlio non possa credere che un proiettile viene deviato da un calcinaccio e questo finisca nella testa. Sì, ma lei lo sa com'era lei lo sa com'era quella foto là, con quello col passamontagna, con l'estintore in mano che stava per attaccare una camionetta dei carabinieri. L'ha vista quella foto? Sì, l'ha vista quella immagine. Un attimo, ma lei ha visto anche foto che mostrano la distanza di Carlo Giuliani dalla camionetta? Lei ha visto la foto del poliziotto fermo che un prima che Carlo Giuliani avanzasse puntava la pistola contro altri manifestanti? Fermo un attimo. Alessandro Di Battista dei 5 Stelle stavolta, il quale si è arrabbiato perché dice che dedicare una giornata nazionale alle vittime dell'immigrazione è una follia, e ha perfettamente ragione, perché se uno perde tempo alla Camera dei Deputati per discutere di un progetto di legge che prevede l'istituzione di una giornata dedicata alle vittime dell'immigrazione, non bisogna per forza disprezzare le vittime. Non è che è una giornata di vacanza. No, ma non è questo il punto, è questione della perdita di tempo. È la questione della perdita di tempo e di carte per istituire una giornata per le vittime dell'immigrazione. Ma lo direi lo stesso, anche una giornata per i cani, per i gatti, per le vittime dell'alimentazione. I cani e i gatti. Ma che c'entra? Ma perché hanno meno diritti degli immigrati? Non ho capito. Mi sembra un po' diversa la giornata dei cani e dei gatti. Dai, su, ragazzi, una Di Battista. Presidente, prima una domanda, ma lei si affaccia qui alla Camera o quando ci sono i minuti di raccoglimento per le tragedie o per l'istituzione delle giornate nazionali in memoria delle vittime dell'immigrazione? Perché è una vergogna e se vi scaldate siete ipocriti. Questa è una legge. Posso parlare? Posso parlare? Li può far tacere anche se sto facendo un attacco politico? Presidente, li può far tacere? Ecco, vergogna! Alessandro Gassman, il quale dice che il suo riferimento nel centro-sinistra, è Papa Francesco. Io sarei sarei di centro-sinistra. In questo momento il mio riferimento di centrosinistra è Papa Francesco, insomma, l'ho detto abbastanza spesso. Salvini di oggi: se mio figlio va in un campo rom o se mio figlio trova una fidanzata rom, lo prendo per le orecchie. Al cuore non si comanda, non sono io a dover auspicare questo o quel futuro per i miei figli. Ci sono anche tanti rom che in Italia vivono, persone per bene, nelle case. Ecco, mi rifiuto di pensare a mio figlio o mia figlia che entra in un campo rom perché il papà lo viene a prendere per l'orecchio. Però ci sono tante persone per bene, a prescindere dal colore, dalla razza e dalla religione, che vivono rispettando i diritti e i doveri che rispettano tutti gli altri italiani. Poi ancora sulla Boldrini, che secondo lui ha i morti sulla coscienza. Questa non è la prima volta che si dice che il Presidente della Camera, per le sue politiche di accoglienza, ha i morti sulla coscienza. Boldrini è insopportabile, non è all'altezza di fare il Presidente della Camera, penso neanche l'amministratore di condominio, pontifica a spese degli altri. Ieri, se ci sono stati 400 morti nel Mar Mediterraneo, pesano sulle coscienze dei buoni. Partite, venite, c'è posto, c'è spazio, e ne annegano a migliaia. E quindi la Boldrini andasse a fare un salto in Libia, ci si fermasse magari per qualche mese, poi riparliamo di cos'è accoglienza vera. Allora, Vittorio Agnoletto, che fu protagonista di quei giorni, per tornare alla vicenda del G8, dell'intervista di ieri alla Zanzara del poliziotto, eccetera, eccetera, ha detto che secondo lui il poliziotto Tortosa andrebbe rimosso immediatamente dalla polizia perché non è in grado di fare il poliziotto. Tra l'altro, Agnoletto, in quello che ha scritto Tortosa c'è un riferimento pure alle cosiddette zeccacce, così scrive, non scrive solo le cose su tornare nella Diaz, ma anche alle zeccacce, eccetera, eccetera. Ma lei si ricorda che subito dopo la morte di Carlo Giuliani ci fu un colloquio telefonico tra due rappresentanti delle forze dell'ordine e uno disse 1-0 per noi. Secondo lei questo è compatibile con indossare una divisa che deve difendere? Vabbè, ma quelle sono, quello è un altro discorso. No, no, d'accordo. Agnoletto, qual è la teoria alternativa sulla morte di Giuliani? Non ho capito. Quello era con un estintore con lo passamontagna e stava attaccando una camionetta della polizia. Era un violento, perché non lo dice apertamente? Era un violento e Genova fu messa a ferro e fuoco da violenti. Poi la polizia ha commesso degli errori e delle violenze. O no, o non si può dire. Genova, se lei vuole dire che a Genova hanno agito dei gruppi di black bloc, che questi gruppi di black bloc sono stati lasciati agire in modo dalle forze di polizia e che ci sono filmati, tanto per citare Lei dice che la polizia è responsabile. Ferrario, che mostrano questi che distruggono le cose e la polizia lascia fare dietro le file della polizia e dei carabinieri, questi sono fatti documentati. Cioè erano poliziotti e non black bloc quelli là. Inciti un caso. No, ma dica lei, è lei che... Un caso solo in cui la polizia ha attaccato i black bloc a Genova. Me ne citi uno. Ma no, ma a Via Limonda, eccetera, eccetera. Ma comunque no. No, in Via Limonda non c'erano i black bloc. Però adesso non siamo qui a ricostruire. Agnoletto, lei è ancora convinto, dopo tanti anni, che fu la polizia in realtà a provocare gli incidenti? No, me lo dica. Io ho detto un'altra cosa. Beh, no, praticamente ha detto questo. Ho detto che gruppi di black bloc sono stati lasciati agire in disturbati. Beh, sì, dunque la polizia ha provocato l'incidente. La polizia non ha fatto nulla per fermarli. Che ho detto io? E poi ha invece caricato, massacrato di botte inermi persone. E questo perché cosa? E per questo è quello che è questo perché cosa? Per quale motivo, secondo lei? Cioè, qual è il progetto dietro? Qual è il disegno dietro? L'obiettivo era molto chiaro, quello di distruggere uno dei movimenti più grossi che si sia mai realizzato. Ma distruggere? Ma chi se ne fregava di quel movimento là? Chi se ne fregava? Allora stia a sentire questa frase. È fin troppo facile prevedere l'eventualità che giovani poliziotti, magari inesperti o esausti, dopo giorni di veglia, se isolati, possono reagire sparando e ammazzando un manifestante. Allora, quello che io ho letto non è il comunicato del Ministero degli Interni dopo la morte di Carlo. È un documento ritrovato il 5 giugno 2001, un mese e mezzo prima di Genova, in un cestino di rifiuti da due poliziotti, proviene da servizi segreti, è stato aperto un'inchiesta. Cioè, secondo lei a Genova operarono i servizi segreti per distruggere una città? No, lo dica. A Genova era stata fatta la scelta di reprimere fortemente il movimento perché quel movimento aveva un consenso enorme sulla popolazione. Vada a leggersi i numeri di Famiglia Cristiana prima del luglio 2001. Che c'entra Famiglia Cristiana? Mica la Bibbia, no, la Famiglia Cristiana. Beh, oddio, fatto le inchieste sul consenso per loro. È autentico posizioni. Questo. No, interessante questa cosa. Però Agnoletto, io voglio dire una cosa. Luca, sì, Carlo Giuliani, secondo te che cos'era? Un violento o no? Era un violento? Sì, lo possiamo dire che era un violento? Carlo Giuliani. Non era un violento. Vabbè, senta, lei crede che... Allora, lei sa che Carlo Giuliani è uscito col costume sotto i pantaloni perché pensava di andare al mare? Carlo Giuliani non era un violento, non era un violento. No, benissimo. Carlo Giuliani si è trovato in una situazione e quella come si è trovato? La fotografia è falsa. Appiattisce l'immagine di Carlo. Carlo era molto più lontano dalla camionetta. Non voleva attaccare la camionetta della polizia. C'era un poliziotto che aveva scusi, guardi le fotografie. No, ma mi risponda alla domanda. Secondo lei un altro ragazzo? Secondo lei non voleva attaccare la? Atteggiamento per difendere. Non voleva per difendersi da chi? Ma se lei non mi sta a sentire quando parlo, no, ma per difendersi da chi? Dal poliziotto che nella camionetta aveva puntato, prima ancora che Carlo prendesse in mano l'istruttore, la pistola contro un altro manifestante. Cioè, secondo lei ha agito per legittima difesa? Ha agito per legittima difesa, Carlo Giuliani? Ma senta, come mai non si è voluto fare il processo? No, ma domanda, ha agito per legittima difesa, sì o no? Come mai non si è voluto fare il processo? Ma è lei che mi deve rispondere, non io. Lei crede veramente che il poliziotto stesse parando in aria e che il colpo è stato deviato? Ma io non lo so, questo qua, io dico semplicemente che c'era una 60-70 all'ora contro i manifestanti condannati dai magistrati. Io le sto chiedendo una cosa, secondo lei ha agito per legittima difesa? Dunque, caro Giuliani, stava agendo per legittima difesa? Io le rispondo con la sentenza dei magistrati che, parlando del corteo delle tute bianche, hanno scritto che le tute bianche si sono difese dalla carica ingiustificata e motivata. Vabbè, ma questo lasciamo perdere. Stava attaccando i carabinieri o no? Vabbè, ma lei vuole fare il comizio, Agnoletto? Sono stati tutti assolti per legittima difesa. Stava attaccando i carabinieri o no? No. Non stava attaccando i carabinieri. È una cosa incredibile, dai, su. È la negazione della realtà. Lei forse non conosce i fatti. ma lei forse li conosce troppo, forse li conosce troppo, perché è peggio, perché spesso no, è peggio. Io cito i magistrati che lei non cita. I carabinieri hanno attaccato un corteo assolutamente autorizzato, mettendo parole di magistrati. Ma secondo lei c'erano solo pacifisti e là, c'erano solo gente che... c'erano pacifisti, ti sta dicendo. Ti sta dicendo è tutta una trama per creare casino e distruggere il movimento. Ma dai, su. Allora, secondo lei che cos'è? No, mi racconti, secondo lei che cos'è? Ma è giusto intitolare, un'aula. Ma io sono io che faccio le domande. È successo che gruppi di facinorosi volevano distruggere una città e fare casino per scopi evidenti e chiari, per far fallire un incontro internazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Mi pare chiaro. Lei ha perfettamente ragione. Posso aggiungere una seconda parte? Cosa? Che la città era protetta da migliaia di... E quello c'è stato un errore. Assolutamente, erano non violenti con le divise, che hanno difeso i valori della Costituzione, no, hanno garantito il diritto al dissenso. Quello sono stati... Ma che cosa dice? Quello sono stati... Guardi, il dissenso in Italia è garantito al massimo. Ma c'è un limite, c'è la verità storica. Guardi Agnoletto, la libertà di pensiero e di manifestazione in Italia è super garantita, lei lo sa benissimo, super garantita, cioè, non voglio dire troppo perché per me non è mai troppo, ma è super garantita. Beh, questo ci mancherebbe, super garantita. Quindi lei difende l'atteggiamento e il comportamento delle forze dell'ordine? Assolutamente no, perché secondo me c'è stata una grande, come dire, una grande mancanza dal punto di vista della gestione generale, eccetera eccetera. I singoli comportamenti vanno puniti, ma che si sposti, allora, l'attenzione alla polizia invece allora, che guarda, io non credo, come me dico, che esiste un virus della schizofrenia. Come mai 200 poliziotti all'interno della Diaz massacrano la gente di botte? Lo fa ognuno per iniziativa propria o hanno avuto degli ordini? Ah, che quello possibile che abbiano avuto degli ordini. Venivano puliti. Possibile che abbiano avuto degli ordini, non c'è dubbio, ma non è stato accertato, ma possibile che abbiano avuto degli ordini. Qualcuno per quello, ma questo è polizia... sbagliato. Agnoletti, io sono d'accordo con lei, l'ho detto l'altro giorno, che De Gennaro secondo me non è una follia che sia ancora presidente di Finmeccanica. L'ho detto anch'io, non si preoccupi, che non ho i paraocchi, non sono pagato da nessuno. Sto dicendo che lei sulla vicenda di Giuliani nega la realtà. Lei sta dicendo che non stava attaccando i carabinieri, è una vergogna questa io roba qua. Un'altra cosa. No, stava dicendo questo. Quello che dico io lo dico io. Lei dice quello che vuole lei, ma quello che dico io lo dico io. Vabbè. Io dico che Carlo Giuliani faceva parte di un corteo. Si stava difendendo. È stato attaccato da una violenza incredibile da parte dei carabinieri, con le macchine mandate a 60-70 all'ora e condannati dei magistrati. Si stava giustamente difendendosi. Quello, i ragazzi hanno reagito per difendersi, attaccando col passamontagna e con la cosa. Uno, perché deve avere passamontagna? Ma uscito per andare al mare? Perché? Con ma chi se ne frega perché è uscito per andare al mare? Perché non c'è rimasto al mare? Era meglio, no? Se rimaneva al mare. Era meglio, molto meglio se rimaneva al mare. Molto meglio. Vabbè, allora i carabinieri hanno fatto bene ad attaccare. Peccato. I carabinieri hanno fatto bene a sparare perché si sentivano circondati e dunque hanno sparato. Hanno il monopolio della forza e della polizia, favore, in questo paese, non dei criminali, non dei criminali con gli estintori in mano. Guardi, se lei parla dei gruppi dei Black Bloc, lei non mi risponde sul fatto che questi gruppi sono stati lasciati agire. Questo, su questo ci sono varie interpretazioni. Le forze dell'ordine non hanno mosso un dito e hanno massacrato i presenti. Senta, è giusto intitolare una stanza della Camera? È giusto, lo chiede ai magistrati. Di Franco a poliziotti e carabinieri. Vabbè, lei pensa... Allora, l'obiettivo a Genova era quello di distruggere un movimento fortissimo, Agnoletto, che era cresciuto, Agnoletto, e che faceva paura sui contenuti. Ma quando mai? Paura dei contenuti? Ma quando mai? Ci sono sempre stati questi movimenti e non hanno mai fatto paura a nessuno. Perché si parla di contenuti, guardi, che non è che si parla Agnoletto, di scontri. No, io voglio... Mi risponda un'ultima cosa. Sono venuti a dire che Agnoletto, quel mondo non andava bene. Oddio, Agnoletto, mi scusi, è giusto intitolare un'aula della Camera a Carlo Giuliani, secondo lei? Mi risponda sì o no? Non c'è nessun problema, certo. Certo, no, è giusto, benissimo, è giusto. Abbiamo tante persone in Italia qui titolare un'aula della Camera a Carlo sì, Giuliani. Guardi, ne suggerisco qualcuna, gliene suggerisco qualcuna. Cucchi, Aldrovardi, sa chi sono? Sa come sono finiti? Ma che c'entrano Cucchi e Aldrovardi? Adesso sono altre cose, ma sono altre vicende. Lei si rifiuta totalmente di ragionare sul fatto che all'interno delle nostre forze dell'ordine ci sono mele marce, sì, è vero, ci sono mele marce. Le dico una cosa di cui voi non parlate mai. Qual è? Mi permette di fare un nome. Chi è? Lei sa chi è Anso in Andreassi? Sì, Andreassi era quello che è morto, credo, no, se non sbaglio. Anselmo Andreassi, per fortuna, è vivo e vegeto. Ah, no, ma era il vice capo della polizia a Genova, il vice capo, il numero due della polizia. Si rifiutò di attaccare la Diaz, si rifiutò di partecipare alla riunione che preparava l'assalto. Qui non stiamo facendo la storia. La sua carriera dentro la polizia. Allora parli anche dei poliziotti. Va bene, grazie. Grazie, Agnoletto. Rimosso per non aver voluto attaccare la Diaz. Grazie, a presto. Se ne rende conto? Grazie. Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe. Sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. Sono condannato ad ascoltarvi, sono costretto proprio causa forze maggiori a sentire la vostra radio, la vostra trasmissione, non posso farne meno, sono proprio condannato. Andiamo a Milano, Edoardo, vai. Pronto? Dimmi. Eccoci, due cose velocissime. Allora, non se ne parla neanche di intitolare un'aula ai morti degli immigrati, non per il rispetto agli immigrati, ma mi sembra, come diceva Battista, che è una vergogna incredibile perdere tempo, visto che siamo messi con le pezze al culo in Italia, di discutere, di perdere un'ora e passa su questi argomenti. Allora? Primo, intitolare anche un'aula a Giuliani, anche secondo me non se ne parla, così come chiedere scusa, mi sembra veramente assurdo. Perché voglio dire, anche lì si tratta di un caso molto delicato, grande rispetto per la morte di Carlo Giuliani e la famiglia, però anche un attimino bisogna andare a fondo su quello che è successo. Vabbè, di poi... in un momento, in un attimo in cui ci si è trovato con un carabiniere che era accerchiato. Vabbè, adesso non torniamo su questa vicenda qua, Edoardo, vai. E poi allora l'ultima cosa veloce è, intitoliamo una giornata, anziché all'ennesima scusa o stronzata, ma intitoliamo all'ego, all'amor proprio. All'ego, all'amor proprio, che vuol dire? 365 giorni all'anno io la dedico a tutti gli altri, alla lotta contro mille cause giuste, però un giorno all'anno dedicatela all'amor proprio. Cioè, io esco la mattina, se qualcuno mi chiede potresti fare questa cosa per me? Beh, no grazie, oggi è il mio giorno e allora? Me lo penso per me. E allora? E allora basta, penso che così. Bah. Fulvio, provincia di Napoli, dai. Mica ho capito. Ma manco. Ciao Pisciani. Fulvio, provincia di Napoli, dai. Ciao Pisciani, mi senti? Sì, dimmi. Sì, voglio parlare con Parenzo un attimo. Parenzo? Sì. Pronto? Parenzo, mi senti? Sì. Pronto? Ieri ha detto una cazzata, Parenzo. Sì, ma ne diciamo tante. No, ma ieri stranamente ha detto Parenzo una cazzata. Hai paragonato gli scugnizzi napoletani ai bambini rom che rubano. Gli scugnizzi, quelli che commettono reati, non gli scugnizzi in generale. Vabbè. Perché Dunque, Fulvio? Mi sembra un parallelo corretto questo. Ho qua, detto che no, questo che... ha detto, dai, forza. Ho detto che gli non scugnizzi non tutti i bambini, no, di Napoli, non dire cazzate, Fulvio, dai, forza. Su. Non i bambini. Sì, ho capito. Gli scugnizzi, quelli che commettono reati. Quelli che commettono reati, che fanno piccoli cose di allora? Bambini dei rom, uguale. No, che fanno in motor... secondo me è il caso di precisarla questa motorino cosa di chiarirla. Magari casco, avevo capito male scippi. Io, insomma, andava bene chiarirla. Va bene, no? Fulvio, Rocco, provincia di Roma, dai. Ciao. Rocco? Pronto? Dimmi, Rocco. Pronto, buonasera. Senta, a cortesia, se noi permettiamo al signor Agnoletto, a distanza di 14 anni, ancora di fare queste esternazioni, significa che abbiamo toccato il fondo. Come il poliziotto si esprime una propria opinione per quanto riguarda i fatti accaduti alla Diaz e compagnia bella, teniamo presente che la polizia è un paramilitare, pertanto i ragazzi hanno eseguito gli ordini. Anche lui esprime un'opinione contro la magistratura, contro la sentenza, no, contro quella che... Ma è diverso, come si fa a non capire che un rappresentante dello Stato, no? Cioè, come si fa a non capire la differenza? Allora, ad esempio, no, lei si sentirebbe sicuro se un giudice, ad esempio, scrivesse... Come si chiama? Rocco, no? Bene, allora, un giudice che l'ha giudicata, mettiamo, scrive su Facebook: Rocco è un coglione. E poi il giorno dopo lei se lo trova in tribunale perché la deve giudicare. Lei si sentirebbe. E dice: no, ma io l'ho scritto solo su Facebook, dice Parenzo, il giudice. Guarda che abbiamo avuto fiore di magistrati che hanno fatto delle manifestazioni armati di manganelli e con caschi e bandiere. Di manganelli? Ma adesso dimentichiamo queste magistrati poi con manganelli. Quando non erano magistrati, diciamo. Con manganelli? Sì, guarda, magistrati con manganelli, non magistrati con manganelli, hanno partecipato. Sì, ma quando non erano magistrati, insomma, no, magari... no, quando erano magistrati. Beh, con caschi e con manganelli non mi risulta. Non mi risulta. Informatevi. Vabbè, Rocco, ciao. Allora, ragazzi, continua la grande inchiesta della Zanzara, eh? Grande inchiesta della Zanzara sui cognomi. Sui cognomi brutti, i cognomi sporchi, i cognomi impronunciabili, i cognomi che nessuno di voi vorrebbe avere, diciamo la verità. La grande inchiesta è soprattutto seguire i consiglieri, anzi no, i funzionari di alcuni comuni che chiedono ai cittadini che portano questi cognomi. Abbiamo visto il caso di Piscia, abbiamo visto il caso di Schettino, abbiamo visto il caso di non mi ricordo cosa. Che chiedono ai cittadini, ma insomma, ragazzi, dovete cambiare cognome, eh? Cioè, vi diamo pure dei soldi. Questa volta il cognome è Maiale. Insomma, dai, Maiale pure non è bello, Parenzo. Maiale, Maiale no, non capito, è bello. Ma tu insisti ad appoggiare queste iniziative. Sì, ma se io mi chiamassi Giuseppe Maiale, se io mi chiamassi Giuseppe Maiale, oggettivamente, io credo che... Beh, intanto io sarebbe credo, in linea con quel che può darsi, però io metterei 5.000 euro, che non 1.000, 5.000 per cambiare cognome. Ma ognuno... Ho capito, ma tu Giuseppe puoi... Maiale, cambio cognome. Uno non si può chiamare Maiale, dai, ma su. Non si può, ma è una tradizione cosa insopportabile. Di famiglia, magari, no? Ma ho capito, ma sarà pure una tradizione, ma uno non si può chiamare Maiale. Dai, ragazzi, a Maiale è insopportabile. Pronto? Cosimo Maiale, buongiorno. Sì. Il comune sta rinnovando il parco cognomi eliminando quelli più imbarazzanti, lei mi capirà. Sì, no, mia figlia vuole cambiare. Quindi non vuole più essere Maiale. Aspetta, io stasera domando a mia figlia e vado al comune. Mia moglie dice di no. E sento che sua moglie magari non è propriamente d'accordo, mettetevi d'accordo, no? Perciò mi metto d'accordo, perciò io non posso risolvere il problema da solo. Pronto? Signora Maiale, buongiorno. Buongiorno. Il comune ha deciso di cambiare alcuni cognomi giudicati molto sconvenienti per il comune stesso. Io non mi ho cambiato per cognome, io mi metto Damato. È mio marito Maiale. E l'unico Maiale resta suo marito, mi sembra di capire. Io domani mattina faccio venire mio marito. Pronto? Sì, buongiorno, chiamo dal comune. Sto cercando Gaetano Maiale. Sì, può parlare con me perché mio marito non c'è. Sì, signora, allora, il comune sta rinnovando il parco cognomi, eliminando quelli più sgradevoli. Sì, è così. Comunque mio figlio già l'ha cambiato, quindi... Ah, quindi suo figlio ha già cambiato cognome? Sì. Quindi lei è disposta a cambiarlo? Se fosse per me sì, ma mio marito non vuole. Che devo fare? Purtroppo è così. Pronto? Sì, buongiorno, chiamo dal comune. Sto cercando Gerardo Maiale. Chi lo desidera? Scusi, mi dica. Sono un funzionario del comune. Sì. E suo marito? Sì. Il comune ha stanziato 1.000 euro per coloro che intendono giustamente cambiare cognome. Lei può gentilmente richiamarmi? Certo. Perché adesso io ovviamente non posso prendere decisioni io a posto di mio marito. Però per 1.000 euro lei cambierebbe, mi sembra di intuire. No. Devo parlare con mio marito, io non le ho detto che sto cambiando idea. No, però mi sembrava dall'intonazione che fosse favorevole, ecco, tutto qua, per carità. Non si deve offendere, ecco, ma la mia no, era soltanto... non mi sto offendendo, devo semplicemente parlare con mio marito, perché è un discorso che nel momento in cui i bambini erano piccoli, siccome venivano presi in giro a scuola, avevamo già valutato questa cosa. Lo vede che venivano presi in giro, allora ha maggior ragione. Ovviamente io non posso prendere decisioni io al posto di mio marito. Per carità, si figuri, giusto, perché giusto. Io sono Bova, lui è Maiale. Lei è, scusi? Bova. Bova e Maiale, quindi siamo messi proprio bene. Certo. Ma lo vedi che la gente poi alla fine ci ragiona su queste cose qua? Cioè, questi qua dicono, uno ha già cambiato cognome, i figli soprattutto, no? Magari quelli anziani di 70 anni se ne sbattono i coglioni. Ma i figli, uno non può chiamarsi Maiale di cognome, è insopportabile, dai. È quasi una causa civile da fare, Parenzo, da portare avanti, o no? Una grande iniziativa, dai. Ma no, mi pare adesso no, interessante la signora che dice sì, per i bambini ci stavamo riflettendo. Dai, su, dai, Susanna. Però... Genova, no, anzi Giampiero, Roma, vai, poi Susanna, Giampiero. Sì, volevo intervenire sui fatti di Genova. Ancora, ragazzi, non ne posso più, domani chiudiamo perché non ne posso più di questa vicenda. Nuovo, bravo, dai, nuovo. Giampiero, dimmi. Un'altra ricostruzione. Allora, volevo difendere tutto l'operato della polizia che è stata fatta a Genova. A prescindere, da casa sua difende l'operato, bravo. A quell'imbecille che c'hai vicino e quell'altro coglione di Agnoletto che si vanno a buttare a mare, perché questa è gente che non vale niente, gente che non ha le palle. Non vale niente. Arriva lui da casa sua, 10 anni dopo ci spiega com'è andato a Genova, è arrivato il genio. Bravo, bravo, bravo. bravo Porello, hai avuto il tuo minuto di celebrità. Aspetta, Porello, parlare un attimo. Hai detto aborto, farlo parlare. Vattene con gli zingari, vattene a vivere i campi d'ombra. Caprone, ma che c'entra Giampiero? Siete tre caproni. La polizia ha fatto bene. A fare cosa? A fare cosa? Fate vedere tutti i filmati che hanno fatto sti delinquenti contro la polizia. Tutti i poliziotti che stanno all'ospedale. Fateli vedere queste cose. Ma cosa fate vedere. Beh, qui non dobbiamo far vedere nulla perché è la radio. Cosa c'entra questo? Cosa c'entra questo con gli abusi? Vergo, arriva lui, telefona. Vergognatevi. Hai avuto il tuo momento di celebrità? Hai avuto i tuoi due minuti di pubblico? Li hai avuti? Tu bravo, sei un hai avuto il pubblico, hai avuto due minuti di pubblico, tu su, adesso puoi tornare a casa, orgoglioso, col petto tronfio, ho chiamato la zanzara, e gliel'ho detto, sto con la polizia, ho avuto il mio minuto di pubblico. Ma perché fai il verso in napoletano? Perché così mi ascolta? Sei un giornalista venduto, gliel'ho detto, stavo al telefono, ho chiamato la zanzara, 800-24-0024, c'era l'amico Cruciano. Brava persona quello, è un fascista come me, bravo, reazionario, e invece c'è stato quel comunista di merda, io l'ho detto, un minuto di celebrità ho avuto, io mangiamo, è un minuto, mangiamo la pizza che avevamo dato in coppa, ho avuto il minuto di celebrità. Stupidone, sei uno stupido, sei. Torno a casa, contento, bravo. Comunque guarda, Agnoletto e Casarini, piccatevi tutti e tre. Cretino, io non ti ho nemmeno risposto, non ti ho nemmeno detto. Io sono sempre d'accordo con Cruciani. Non ti ho nemmeno detto nulla sul fatto che mi ha dato del fascista perché me ne fotto, figura delle stronze. Io non so, guarda, se io sono reazionario, tu penso che sei monarchico, guarda. Ci mi considero di gran lunga più progressista di te, ma di gran lunga, ti posso assicurare. Ma di gran lunga, guarda, mi considero non manco di poco, ma di gran lunga più progressista di te, non ti preoccupare. La parola progressista. Non ce la faccio più, non vi supporto, è un programma brutto, è brutto. E comportatevi bene. Tra poco un grande ospite, caro Parenzo, grande ospite, un intellettuale che è anche un punto di riferimento dei nostri giorni, dei nostri tempi, te lo presento tra pochissimo, intanto Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Ascoltatori di Radio Padania, soprannominata da Parenzo, Radio Ku Klux Klan, ma io non sono d'accordo. Quando penso cosa farebbero questi simpatici fratelli islamici nelle chiese, lasciamo perdere. Ma io ci sarà una cura al populismo? Lei non prende niente, signora? Guardi, io credo che l'unica cura siano le legnate. Ognuno che se ne porti a casa uno, se no io vabbè, è morto il cane, c'ho un paio di posti, una cucetta bella, io uno tengo lì. A chi ti vuol fermare? Se l'Albano, se la Boldrini, devi dire che sono medicine che si prendono per via rettale. Vedere quanto è bella la tua terra. Allora io avrei un posticino per finalmente una un cuore d'oro, finalmente. Qua, vedi che qualcuno sta assumendo Boldrini. Scusi? Che è morto, poverino. No, e la casetta è rimasta libera. Un Rottweiler. Un cane. Erano voci da Radio Padania. Parenzo non dice nulla, come mai? No, erano voci di persone che odiano, disperati. Non erano voci di gente che odia, come le vuoi definire. Ma poi hanno questa, la cosa terribile, sì, è anche il tono della voce. Cioè queste nonne, queste signore che magari sembrano anche graziose, sono un po' come... Hai presente le donne del Terzo Reich, quelle che stavano a fianco dei loro mariti che poi entravano nei campi di sterminio? Cioè erano peggio dei mariti, dici te, peggio dei mariti. Alla no, fine. Io ricordo le donne del Terzo Reich, quelle che accompagnavano Himmler, Kappler, quella gente là, erano persone anche apparentemente normali quelle donne, no? E invece? Le persone che stavano... lei in realtà stavano vicino a uomini mostruosi che commettevano crimini contro l'umanità. Scusa, ma tu ci hai informato del fatto che uscivi dallo studio e andavi da un'altra parte? L'ho detto, no, è mio stacco. Cioè, hai informato qualcuno che tu ti spostavi oppure no? Perché siccome sento un suono diverso, voglio capire, hai informato qualcuno oppure hai fatto come cazzo ti pare? No, per curiosità. No, ho informato, sto andando a fare il collegamento di Ma quando? Scusa, chi ha informato? Cioè, chi ha informato? Qualcuno? Io non sapevo nulla. Ha dato anche un messaggino a Riccardo A chi? Foglia. Hai ricevuto messaggi dall'altra parte? Abbiamo ricevuto messaggi? Nessuno. Cioè, tu alle 20:30, uno che lavora in questa radio, esce e a un certo punto uno così, uno esce. Ma chi se ne frega? Avverti, no? Avverti! Cioè, ma roba incredibile, guarda, incredibile, cioè, incredibile. Madonna, mia bella e libera, guardava. Ma abbiamo con noi, beh, amici miei, è stato designato da Rocco Siffredi come il suo erede, Max Felicitas, from Bergamo, buonasera. Ciao ragazzi, comunque non from Bergamo, from Udine. Ah, from Udine, è vero, chi è che mi ha detto bene? Non so perché c'ho Bergamo, ma Udine, scusi, signor Max Felicitas, a parte che il suo, non è il suo vero nome, immagino, Max Felicitas, no? No, non è il mio vero nome, ma d'arte. Hai già il nome d'arte tu, a quanti anni hai? Io 23. Cioè, a 23 anni, tu hai già un nome d'arte, ma chi te l'ha dato? Te lo sei scelto da solo? Sì, me lo sono scelto da solo, sì. E come mai? Max, cioè, ti chiamerai Massimiliano, diciamo che... no? No, mi chiamo Edoardo, però all'inizio era una roba che tenevo un po' nascosta, perché facevo strip così, non lo sapevano i miei, non lo sapeva nessuno, era una roba che volevo nascondere. E dunque hai trovato Felicitas. Max Felicitas. Sì. E perché Felicitas? Perché dai felicità? Bravo, vedi che... Che ne so, penso, bravo. Cioè, ma non è che per caso tu se abiti nei dintorni di Sacile, per caso, no? Beh, io abito a Codroipo, che alla fine 40 minuti da lì. Capito Parenzo? Cioè a 40 minuti da Sacile. Io su Sacile non commento e non dico niente perché sono riservato, ma invece mi interessa ragionare con questo. Lei esattamente di che cosa si occupa, visto che dice che fa parte di una organizzazione non governativa, di una ONG, cioè in che senso? No, fa film porno, ha cominciato da poco a fare film porno, caro. Ho capito. E i genitori cosa... Sono sì, se si capisse qualcosa di quello che dice Parenzo, ma purtroppo qui sento basso. Ma se lei sente basso, figuriamoci le persone che ci ascoltano là e che dicono a Parenzo vai a fare in culo e lavora alla radio invece di stare sul taxi. Ma che dobbiamo fare? Purtroppo è così. Signor Felicitas, i tuoi genitori che hanno detto quando lei ha deciso di darsi al porno? Non sono assolutamente d'accordo e tuttora non vogliono che cambi strada, ma io ormai la mia strada l'ho presa. Hai deciso definitivamente, Max, hai deciso ormai. Sono fiero delle mie scelte, sì. Sei fiero delle tue scelte, ma scusa, tu sei ancora iscritto all'università, perché mi sembra che studi cosa? Sono ancora iscritto a economia, però diciamo che ho lasciato un attimo da parte economia per dedicarmi appunto a un altro mestiere. Beh, questo però Parenzo non va bene, eh? Ha mollato economia per dedicarsi. Cioè, lei praticamente fa economia davanti e commercio di dietro sostanzialmente, no. Mi pare di poterla di dietro così. Verso le donne, non nel mio di dietro, ovviamente. Ah, perché tu sei... Beh, io sono dalla parte dei suoi genitori, non voglio passare per bacchettone, però... Ma perché? Se uno può fare le sue scelte, non capito, non può fare film porno. Questa ha deciso di fare film porno, ha deciso di fare film porno. Io mi metto nei panni dei genitori. No, ma ho capito, ma se tu avessi tua figlia che a un certo punto decisi di fare la porno star, la signora, adesso non voglio fare i nomi, perché se no mi offendi... Mi dispiacerebbe, un po' mi dispiacerebbe. Ti dispiacerebbe. Sicuramente farei di tutto perché non lo facesse... Ma non sono un ipocrita perché lo dico, ma non si sente. Allora, la questione fondamentale è che Parenzo si vergognerebbe, capito? Per cui ma anche tu ti vergogneresti. Ma non lo so, guarda, io non lo so. Ma non essere sempre falsamente aperto, non è vero. Non lo so, ma se una sceglie di fare una cosa del genere, ma non è così leggero e normale, non dire che è normale perché ti vergogneresti anche tu, non fare ma il no, ma vergognarsi aperto. No, magari non ti piacerebbe, ma non lo so, verità. Non lo so, ma francamente non lo so, sono talmente aperto su queste cose che non è questione di esperto. Ma scusa, perché sì. Rocco ti ha nominato suo successore? Cioè, raccontaci un po' come hai conosciuto il mitico Rocco. Allora, come ho conosciuto Rocco? Rocco in pratica io l'ho conosciuto ad un casting a Milano che aveva chiamato 150 ragazzi. E perché sei andato a fare un casting? Cioè, uno di solito va ai colloqui di lavoro, uno di solito manda il curriculum. E tu cose di lavoro, diciamo, nelle aziende, nelle imprese, uno fa economia, tu mandi una specie di lettera. Come hai fatto? Cioè, hai risposto su internet, che hai fatto? Sì, diciamo che mi ho mandato in giro le mie foto. non del sorriso, insomma. Ma perché in testa c'avevi sempre questa cosa di fare attore porno? Cioè, io in testa ho sempre avuto la figa, no? Quindi quello, tante persone hanno la figa in testa, diciamo, molte persone hanno la figa in testa. Fino a che ho saputo di questo provino mi sono buttato, diciamo, sì. Io già facevo lo strip man. Facevi lo strip, ma la prima volta qua a che età l'hai fatto? Guarda, io sono stato vittima di bullismo per tantissimo tempo, finché ho deciso di cambiare vita, sì. E mi sono buttato in palestra e ho iniziato a fare il ragazzo immagine, quindi sì. 19 anni e lavoravo in Ma la prima volta, quando è che hai zoom zoom zoom, che hai trombè? La prima 15, l'oratorio, nella cappella dell'oratorio, no. Che facevo una volta, raccoglievo le offerte a me. Ma con chi, scusa? Con una ragazza che frequentava l'oratorio. All'oratorio, cioè hai profanato anche l'oratorio, insomma. Hai profanato l'oratorio. No, non è... Senti, ma la dotazione qual è? Sopra i 20 o sotto i 20? Siamo a livelli 20. Di rock o un po' meno? 20, 20 esatti, hai già misurato tutto, 20, siamo sui 20. Poi dipende anche dalla recitazione, sai, può sempre variare. Quello non c'è dubbio. Ma io dico, si guadagna col porno oggi? Perché io ho questo dubbio, che non si guadagni poi tantissimo. Quante scene hai girato fino adesso? Io 22. Ho lavorato in Russia, a Praga. Comunque poi dipende. Cioè, hai esportato il talento italiano, caro Parenzo. Cioè, questo qua, Russia, Praga, Ungheria, ha esportato il talento italico. Cioè, non è che adesso. Adesso sì. Voglio dire. È una fuga di cervelli in questo caso, come dire? Ma no? Io non chiamerei di cervelli in questo caso. La fuga degli uccelli. La fuga degli uccelli. Beh, questa non è male. La fuga degli uccelli. Però scusami, Max. Allora, io voglio dire una cosa. Quanto hai guadagnato con queste 22 scene? Cioè, si guadagna oggi oppure no? Diciamola tutta. Ai ragazzi che magari. Io comunque ho lavorato anche sulla pubblicità della mia immagine, ho anche fatto delle canzoni. Quindi. No, ma col porno. No, col porno, diciamo che io ho guadagnato bene perché ho lavorato sì con Rocco, ho lavorato in Russia con Legal Porno, con Cineplex, sono produzioni forti che riescono ancora a pagare bene. Per cui si può dire in un anno quanto hai guadagnato? Così, 200.000, 100.000, 50, 70, 300? Non si può dire. Ma si può ancora guadagnare bene col porno? Perché qualcuno dice, lo stesso Rocco, che ormai è difficile, solo i grandi riescono a guadagnare tanto. Se lo fai con testa, adesso sto facendo un esperimento che uscirà a breve, il primo film che ho prodotto io, quindi vedremo come vanno le cose. Comunque ormai hai deciso di mollare l'economia, la facoltà per dedicarti non mollare, io sono iscritto, penso l'ultimo esame che ho dato ho preso 28 in statistica e penso di continuare. 28 in statistica, però, è una cosa pazzesca, dai. Cioè. Ho lasciato un attimo in stand-by perché... Sto andando bene. Ma tu ci credi al fatto che Rocco vuole mollare il porno? Che Rocco, scusa? Che vuole mollare il porno, Rocco, ci credi? No, lui non ha detto che vuole mollare, ha detto che vuole solo smettere di girare, ma continuare. Sì, di fare l'attore. Senti, ma mi dicono che a te piacciono un po' le MILF, un po' come me. Infatti anche la canzone che uscirà lunedì si intitola I Love MILF. E com'è che fa sta canzone? Perché... Mi dica che sei pure intonato. Sentirete la canzone. I Love MILF. Cioè, a te piace stare soprattutto queste scene che hai girato sono anche con MILF, cioè persone, no? Mother I like to fuck, diciamo. Sì, nell'ultimo film che ho prodotto io c'è una scena con una MILF. Sì. Prodotto, capisci, Parenzo? Quello produce film porno a 23 anni. Cioè, no, per carità, mi fa piacere che tu ti ecciti così, puoi eccitarti anche dei ragazzi che a 23 anni hanno scoperto una molecola particolare, magari per combattere. No, ma quello sicuramente, ma qui è la fuga di altre cose, qui non è la fuga dei cervelli. C'è l'uccello e il cervello, uccello e cervello. Tu non puoi chiedere nulla perché non si sente una mazza, innanzitutto. Ma qual è il tuo ideale? Qual è il tuo ideale di MILF? Mara Venier. No! Cioè, ti vorresti fare Mara Venier. Cioè, quello è il mio sogno, sì. Cioè, il tuo sogno è farsi Mara Venier. Cioè, ma è una cosa incredibile. Ma come, che cosa ti attira di Mara Venier? Adesso glielo dico, cioè... Non so, è sempre stato un mio pallino, fin da quando ero piccolo, che la vedevo nelle riviste. Sai, quando inizi l'adolescenza. Sì. È sempre stato un mio sogno, lei. Cioè, uno c'ha un sogno, che ne so, a 23 anni pensa, che ne so, Belen Rodriguez, eccetera. Cioè, tu Mara Venier. Beh, questo però, devo dire che... Ognuno ha i suoi sogni. Cioè, meglio la Venier, se tu dovessi scegliere davanti, signora Belen Rodriguez o signora Mara Venier, chi scegli? Beh, ovviamente Mara Venier. Beh, Parenzo, tu? Ma, tra le due, dici? Sì. No, lo sai che io forse sono con Max, sono dalla parte di Max. Ma io scelgo la persona grande. Con cui sto. Vabbè, ma tu sei non stai manco al gioco, ma vattene a fanculo, va. Cioè, stai al gioco, abbiamo capito che sei innamorato e stai al gioco, no, amico mio, su, mamma mia, oh. È una cosa pazzesca, guarda. Comunque, vabbè, mi sembra che siamo agli inizi, 22 scene, non ci vuole manco di quanto guadagni, sei già avviato verso una carriera di democristiano. No. Ma scusa, ma tu l'ossessione del sesso ce l'hai? Cioè sei ossessionato come Rocco? Sì, sì, io sono scopo almeno una volta al giorno, impazzisco. Cioè una volta al giorno impazzisci? È la mia droga, sì, sì. E come fai una volta al giorno? A parte le scene, come fai? Trovi sempre qualcuno? No, diciamo che sì, trovo senza problemi. O paghi anche? No, no, quello no. Comunque, vabbè, anche tu sei ossessionato? Sì, io sono ossessionato da sesso, sì. Vabbè Max, ciao, a presto, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Max, ciao. Auguri, mi raccomando, l'esportazione degli uccelli, Max Felicitas, straordinario. Ci sentiamo domani, 18:30, questa è la Zanzara. Cruciani, Parenzo, cia-cia-cia, Zanzare dal nero mantello, cia-cia, il vostro programma sei bello, cia-cia, sollazzateci ancora di più. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di Zanzara. Radio 24. La passione si sente.